L'appuntamento con la mia musica, il mio ritmo, il mio mondo, il nostro cammino è domani sera. Sabato 17 giugno 2006. Discoteca Bambù, via Casilina Sud 82, Latina Lido. Latina. Ci vediamo lì. I wanna feel you, baby, wanna get down. Dedico Non giochiamo alla mia mamma adottiva, il greve. Sono Fabio da Sassari. Voglio dedicare Non giochiamo a Nocciolina di Sassari. Siamo Viviana e Ilenia. Volevamo dedicare Ginnastica mentale al nostro amico Milli, che invece si fa le seghe mentali. Ginnastica mentale. Ginnastica mentale. Fatico molto a passare da una condizione di sonno molto protratto a uno stato di veglia totale. Ginnastica mentale. It's time for hell to be raised as I kick some lyrics on a beat her make. It's time for hell to be raised as I kick some lyrics on a beat her make. Time it as I keep kicks, raise, leave, lyrics on me make. Time it to be kicks, raise, leave, lyrics on me make. Doveva esserci un grande evento a Torino allo chalet, discoteca chalet, ma è stato rinviato. È stato rinviato. Tale evento è stato rinviato a questa sera, venerdì 16 giugno 2006, discoteca Chalet, Parco del Valentino, Torino. Ci vediamo lì. Voglio dedicare Passo Felino a Mattia, compagno di merende elettroniche. Ci fermiamo quel minimo, riprendiamo il cammino tra qualche minuto. M2O, musica allo stato puro, musica allo stato puro. Giancarlo, vorrei dedicare Silence a una persona che mi ha fatto capire cos'è l'amore. Il nostro amore, ricco di silenzi, sguardi, sorrisi, colori, ricco di noi due. Ti amo, mia dolce Chiara. Ricordo ancora di quei due simpatici cowboy che, aspettando l'ora X, si sfidarono a colpi della tua musica, facendo del loro duello un ballo alla vita. Vorrei ancora sentirla, e che ciò sia d'esempio per ogni inutile guerra. Luca. I adore to see you smile. suoni e colori per bimbi e genitori. Questo è il cammino di Gigi D'Agostino. Sono Becci, vorrei dedicarti percorrendo, perché è da 8 meravigliosi anni che percorro con te, le mie sorelle e la femmina sentieri meravigliosi. Non voglio più fermarmi. Suoni e colori per bimbi e genitori. Questo è il cammino di Gigi D'Agostino. Sono Daniela da Rimini, vorrei dedicare lo sbaglio a me stessa, perché mi piace troppo. Sono Henry da Bologna, volevo dedicare a Vince lo sbaglio e dirgli che tutti possiamo sbagliare. Ci vediamo il 24 all'altro mondo. Ci vediamo lì. Sono Riccardo, dedico lo sbaglio a tutte le persone che nella vita hanno sbagliato e che sbagliando hanno imparato. Sono Maria Grazia, oggi è una giornata troppo discotanza. Per favore, lo sbaglio. Non dimenticherò mai la serata all'Opera di Castro.